Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, L'estro del male. Il romanzo di Alberto Paleari racconta la storia del primo serial killer italiano, vissuto nell'Ottocento. Dal 2014 scattano gli sgravi fiscali per chi acquista libri. Ecco come funzionano. Si intitola L'estro del male. È un romanzo che è stato scritto da Alberto Paleari, pubblicato da EO qualche mese fa. Perché ne parlo di questo romanzo? Beh, normalmente i romanzi, insomma, che fanno paura, diciamola così in modo semplice, non mi piacciono perché mi spavento molto. Però ho trovato questo romanzo veramente ben scritto, capace di analizzare la psicologia umana e nello caso specifico la psicologia del cosiddetto primo serial killer dell'Italia Unita, insomma un serial killer che operò nella prima metà del 1800. È un romanzo che è scritto con una scrittura appunto molto pulita, molto posata, meditata, non va subito sulle cose insomma pulp, ma ci arriva lentamente proprio per farci entrare nella mente del criminale, di un criminale d'altri tempi. Allora Alberto, perché hai deciso di raccontare questa storia, che poi è una storia vera, naturalmente nel tuo caso romanzata, quindi c'è del vero, verosimile, fiction insieme, di questo Antonio Boggia, primo serial killer a Milano? Beh, tutto nasce da una fascinazione che io ho avuto tanti anni fa nei confronti di questa vicenda reale, la vicenda di Antonio Boggia, che poi si è trasformata in passione col passare dei mesi e degli anni, fino ad arrivare poi a quasi a un livello di ossessione. Ossessionati da un serial killer del passato. Essere ossessionati dalla natura di quest'uomo, una natura assolutamente contraddittoria, perché Boggia fu un parrucchiano fervente, fu un uomo con moglie e figli, fu una persona, come dico spesso, perfettamente integrata a livello sociale, però allo stesso tempo nascondeva un segreto, era un segreto terribile, un segreto che ovviamente lo rese poi imputato in un processo, e il segreto era che lui aveva ammazzato a colpi di scure, aveva smembrato e seppellito tre uomini e una donna tra il 1849 e il 1859. L'ossessione per questo caso derivava dal fatto che questo personaggio era così ricco di contraddizioni da risultare quasi un archetipo, per come la vedevo io, del male. Quindi una persona reale che poteva essere trasformata in personaggio letterario per scandagliare la linea d'ombra tra il giusto, lo sbagliato, il bene e il male, ma anche, visto il periodo storico in cui lui visse, la linea d'ombra tra due fette molto nette della storia d'Italia, quindi dell'intero nostro paese. Quindi l'Italia prima dell'unificazione. L'Italia preunitaria, insomma, e l'Italia postunitaria. Infatti lui venne processato nel novembre del 1861 e condannato a morte, anzi la pena venne eseguita nell'aprile del 1862 davanti a una folla festante di cittadini milanesi che non mancarono di accorrere numerosi, donne, giovinette e fanciulli, come dicono le fonti, direttamente al luogo della pena, che furono i prati rialzati fuori tra le porte di Porta Vigentina e Porta Ludovica. Allora, questo Antonio Boggia, abbiamo visto, è stato primo serial killer dell'Italia Unita. In questo romanzo tu arrivi alle radici del male, del male di questo Boggia, di questo serial killer, in modo apparentemente pacato. All'inizio ci racconti un po'... Cioè, si capisce che il serial killer è stato ovviamente giustiziato, però ci racconti la sua infanzia apparentemente normale. Poi ci sono delle cose che ti fanno capire che questo ragazzino ha dei problemi. A me è rimasto molto impresso l'episodio dei gattini. Ce lo vuoi descrivere brevemente? Che sì, è un episodio inventato in questo caso. È un episodio inventato, infatti nelle fonti non presentano alcuna evidenza sull'infanzia di Boggia, quindi nel momento in cui io ho deciso di scrivere un romanzo sul suo caso giudiziario, ho dovuto prima di tutto ovviamente costruire una personalità letteraria che fosse credibile per il lettore. Quindi, per riuscire a giustificare un male che esplode in modo improvviso in fase adulta, ho dovuto caricare narrativamente questo personaggio di una serie di percezioni e di vissuti di male che ho fatto partire dalla sua infanzia. E nel caso specifico che citi tu, mi sembrava che fosse verosimile che un personaggio di questo tipo si trovasse ad esprimere il proprio male dopo averne accumulato tanto all'interno di un contesto familiare inventato, così come sono inventati i nomi dei familiari, però che si trovasse a sfogarlo nei confronti delle figure archetipicamente più deboli. Sì, erano questi gattini che appena nati, ad esempio, che, dei gattini, ecco, appena nati erano, gli facevano tenerezza, gli sembrava, facevano tanta quasi tenerezza, però avendo ricevuto uno smacco, e questo si legge sì nelle prime pagine del romanzo, da parte di un suo amico in modo indiretto, che lo costringe a rimanere fuori oltre il dovuto, e quindi viene pulito, esatto, nasce questo germe, che è questo estro del male, su cui poi ruota in realtà tutto quanto il romanzo, perché il romanzo è un'interrogazione sul senso e la natura del male, l'estro del male inteso come male che esplode all'improvviso, male che però germina dentro di noi e quindi fa parte in un certo senso del nostro vissuto creativo, umano e creativo, esatto. Anche perché, insomma, ma non voglio scendere nei particolari perché poi non è bellissimo, e poi tu lo fai in modo molto elegante in questo romanzo. Cioè, Boggia, come purtroppo la maggior parte dei serial killer, aveva tutto un rituale, insomma. Lui aveva un modus operandi molto specifico, e la cosa interessante, visto che hai citato il concetto di creatività, sta in quello che lui fece dopo aver ammazzato le vittime. Infatti, in tutti i casi, lui ordì una serie di truffe a proprio vantaggio, ovviamente, arrivando attraverso anche l'uso di determinati complici a falsificare procure notarili e in modo da incassare il patrimonio delle vittime stesse. Quindi in questo senso l'estro del male inteso anche come creatività finalizzata appunto ad uccidere, qualcosa, a truffare, a ottenere a proprio vantaggio. E in tutto ciò la moglie e i figli erano assolutamente ignari di questa sua doppia vita. Sì, come la moglie succede. La moglie morì ovviamente parecchio tempo prima. Tra l'altro la vita di Boggia fu in realtà costellata di molti alti e bassi, lui, più bassi che alti in realtà. Lui cercò in tutti i modi di diventare ricco, comunque di avere una propria indipendenza, ma inevitabilmente finiva poi per ritornare povero, e questo potrebbe essere uno dei moventi anche dei suoi vari delitti. Ma grande sgomento ebbe soprattutto nei confronti della popolazione la scoperta del suo caso, tant'è vero che anche i figli si dichiararono costernati dal fatto di apprendere che il proprio padre avesse in realtà una duplice esistenza in questo senso. Tu ti sei documentato naturalmente molto per questo romanzo, perché appunto c'è la vita vera di Antonio Boggia. Hai già detto che la parte dell'infanzia è frutto della tua fantasia, insomma hai dovuto immaginare un'infanzia verosimile. Un'infanzia verosimile, diciamo, su un lavoro narrativo finalizzato agli archetipi, quindi racconto una storia, però questa persona realmente esistente, esistita nel nostro caso, impersonifica un archetipo, e quindi ho lavorato sull'ideale che c'era dietro. Quindi insomma sugli aspetti psicologici del serial killer sei andato un po' di fantasia, invece su tutti i fatti, cioè gli omicidi, il modus operandi e tutto quello è tutto questo vero. Questo invece è frutto di una ricerca storica e documentale che ho fatto su fonti d'epoca, originali del 1850 o 60 giù di lì, che in parte ho preso in prestito dagli archivi e in parte invece ho proprio acquistato in librerie antiquarie. Tra l'altro, a proposito appunto del profilo mentale, uno dei viaggi più entusiasmanti è stato proprio quello di rapportarsi con le classificazioni psicologiche dei tempi, che psicologiche non erano, infatti ai tempi la scienza più diffusa in questo senso era la frenologia, che prevedeva che il cervello a sua volta fosse diviso in organi, che ogni organo del cervello riuscisse a comandare un determinato aspetto del comportamento. Erano gli anni, i decenni in cui nacquero poi le teorie craniologiche, frenologiche in questo senso, no? E era veramente impossibile riuscire a traslare le competenze dell'epoca con la logica d'oggi. L'unica possibilità, certo, era quella di usare la creatività. Sui fatti invece documentati, invece in questo senso ho proceduto con parecchio rigore, fermo restando che si tratta ovviamente di un romanzo, e quindi non ho esitato, per motivi narrativi in alcuni casi, a sopprimere episodi, a unirne altri, a fondere determinati personaggi perché erano poi di terzi. Ecco, usare il verbo sopprimere mentre si parla di un libro come il tuo è un po' inquietante, ti sei adeguato al genere. Ecco, prima dicevi, insomma, che hai fatto una lunga ricerca naturalmente per scrivere questo romanzo L'estro del male, e ovviamente ci avrai lavorato tanto. A volte gli scrittori dicono che sono un po' perseguitati dai personaggi che scrivono, almeno nei mesi, negli anni in cui si dedicano a loro. Questo Antonio Boggia, come dire, ti è venuto in sogno, ti ha perseguitato in qualche modo? Mi ha tenuto compagnia tantissimi anni come pensiero latente, perché in realtà io ho cominciato a lavorare il libro come germe intorno al 2005, quindi siamo nel 2013, sono passati 8 anni nel frattempo. Non ho fatto solo quello, sono usciti altri 2 romanzi nel frattempo, più che altro è maturato insieme a me come idea, per cui col passare dei mesi o degli anni io mettevo dei tasselli, soprattutto nell'impianto creativo, letterario, concettuale che volevo utilizzare per rappresentare questo romanzo, e poi a un certo punto le cose hanno cominciato ad accelerare ed è arrivato il momento in cui il libro ho cominciato a scriverlo perché avevo chiaro cosa fare. La stesura però in realtà è durata 9 mesi, quindi più o meno una gravidanza. Esattamente, quindi molto pensiero prima e poi la stesura relativamente in poco tempo. Analizzando la vita di questo serial killer dei primi dell'Ottocento, inventandoti delle parti, ti sei riuscito a spiegare il perché? Cioè, perché questa persona era arrivata ad uccidere? Va bene, era una questione di soldi, era una questione economica, ma perché uccideva, insomma, le radici del male? Le hai capite o no? È il grande enigma. Il romanzo in realtà non fornisce risposte, in un certo senso si pone su una posizione dubitativa, propone una riflessione, un'interrogazione più che fornire una risposta. Diciamo che da autore la risposta che mi do è che, per quanto possa sembrare scontato, la radice del male è in ognuno di noi e poi sta all'elaborazione individuale fare la differenza, ed è proprio questa elaborazione individuale quella che spinge alcune persone a oltrepassare la linea d'ombra, passando dal giusto allo sbagliato, e altre persone invece spinge a rimanere un passo prima del limite. Però è proprio questo, è questo frammento assolutamente imponderabile di coscienza che viene meno e che ti fa fare il salto. Siamo tutti potenzialmente dei serial killer, purtroppo. Grazie ad Alberto Paleari, ora in libreria con L'estro del male, pubblicato da EOP. Ora degli sgravi fiscali che sono stati decisi dal governo per chi acquista libri, una notizia che sicuramente ha reso felici i lettori ma anche gli editori, perché insomma si spera che con questo provvedimento possano aumentare le vendite dei libri, che purtroppo sono fortemente in crisi negli ultimi 2 anni. Pensate che solo negli ultimi 2 anni la vendita di libri e l'introito, quindi il fatturato delle case editrici, è calato di circa il 14%, insomma cali a 2 cifre che non fanno piacere a nessuno. Ma noi siamo dalla parte dei lettori, quindi vediamo il lettore che ha voglia appunto di comprare libri, che cosa può fare. Prima cosa fondamentale, si può detrarre una spesa massima di 2.000 euro a partire dal 2014, 2.000 euro all'anno, 1.000 per i libri vari e altri 1.000 per quanto riguarda i libri, diciamo, professionali e scolastici. Ma per parlarne, per sapere di più proprio come fare tecnicamente a utilizzare questa detrazione, abbiamo qui in studio Alessandro Galimberti, che si è occupato di questo tema, se ne occupa quotidianamente per il Sole 24 Ore. Quindi io mi rivolgo all'esperto del caso, perché io sul fisco purtroppo sono molto ignorante. Di libri ne capisco almeno un po', ma di fisco proprio zero. Allora, partiamo dall'aspetto, diciamo, globale di questo provvedimento. Secondo te proprio ha senso? Farà aumentare la vendita dei libri, sì o no, in maniera consistente, oppure di quello 0,1 che insomma non interessa a nessuno? Mi concedi una premessa di 10 Come secondi? No, certo. Questa norma è stata approvata nell'ambito del decreto legge Destinazione Italia, che quest'anno si va a sovrapporre alla legge finanziaria e sta producendo quel cumulo normativo in cui davvero non si capisce cosa entrerà in vigore, quando varrà e che cosa comporterà. Questo è un decreto legge, è stato approvato il 13 dicembre scorso, non ancora pubblicato. Quando verrà pubblicato poi ci vorranno 60 giorni perché venga convertito, per cui parliamo di una norma che quasi sicuramente entrerà in vigore, ma di fatto non è ancora in vigore. Non è ancora in vigore, quindi insomma la prima settimana di gennaio, i primi 15 giorni, diciamo, di gennaio non sarà ancora però in vigore. Però vediamo cosa comporta. Tu dicevi, ecco, aiuterà il mercato dell'editoria, sicuramente sì. Primo, perché la manovra è strutturata sia sul versante dei libri di testo scolastici e anche universitari, e poi sulla lettura, diciamo così, ricreativa. 1000 euro di detrazione fiscale per ogni singola persona, per ogni singola famiglia, per i libri di testo, e 1000 euro invece per tutte le altre pubblicazioni. Ci possono finire anche alla fine anche le riviste, qualsiasi tipo di pubblicazione, anche per esempio i libri di ricette, che adesso vanno moltissimo. Sì. Un libro di fotografia, cioè la cosiddetta varia, rientra in questo sgravio sì, fiscale, perché la formula usata dal legislatore è libri di testo, anche universitari, e tutte le altre pubblicazioni. E secondo te, insomma, aumenterà ma di quanto la vendita di libri? No, non sono in grado di fare stime, però è vero che c'è una detrazione fiscale del 19% sull'acquisto. Ecco, allora vediamo come funziona. Io sono un lettore, entro in libreria, acquisto come mio solito una paccata di libri, quindi compro 3 romanzi, 2 saggi e 1 libro di fotografia. Vado alla cassa, che cosa devo fare? Anche qui parliamo di ipotesi, perché la legge dice da una definizione generale, poi dice entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto il ministero dovrà emanare un regolamento per spiegare esattamente cosa bisogna fare. Quindi non sappiamo però se funziona ancora come i farmaci, per esempio, che si dà il codice fiscale. Sì, però vediamo, ci sono degli indizi, senz'altro, perché per esempio i libri, le pubblicazioni acquistate, libri di ricette, riviste, devono avere il codice a barre, l'ISBN. Quindi si pone il problema, i libri usati, che fare? Ecco. Sono anche quelli su... Probabilmente sì, non è stabilito qui, probabilmente lo sarà, a condizione che abbiano questo codice. Perché è importante il codice? Perché dovrà essere utilizzato in sede di controllo. C'è un problema, oltretutto, che deve essere identificabile il prodotto che è stato acquistato, perché bisogna capire, l'agenzia del fisco dovrà capire se è editoria scolastica. Certo, che cosa compra? Editoria... Il codice a barre, insomma, identifica il prodotto. Perfetto. E i libri come tutti gli altri. Il venditore prodotti. Dovrà rilasciare, dice la legge e poi rimette a regolamento, una attestazione fiscale chiara, anche perché sull'importo si applicherà il 19% di detrazione fiscale. Ecco, che significa? Siccome siamo in un ambito dove la terminologia purtroppo è oscura, ma ha un significato. Che non è una deduzione. Esatto, non è una deduzione. E qui entriamo nel tema. Ecco. Se acquisto, per esempio, una famiglia compra 1000 euro di libri di testo per i figli, come funzionerà? Di questi 1000 euro, 190 euro possono essere portati in detrazione dalle tasse. Detrazione cosa vuol dire? Se quella famiglia dovrà pagare 2000 euro di IRPEF, ne pagherà con la detrazione del dei 2000 libri 1810. Esattamente, meno 190. Altra cosa invece, un'altra definizione chiara di questa norma dice che questi libri possono essere portati in detrazione, cioè può avere risparmio fiscale, se queste pubblicazioni già non vanno in deduzione fiscale. Cosa dobbiamo capire? Ecco, aspetta, facci capire. Ma la cosa in realtà è semplice. Se un'impresa o un commercialista o un avvocato già acquista dei libri per la propria professione e li mette in deduzione dal proprio reddito, cioè li sottrae perché servono alla sua professione, non può fare la detrazione. Ovviamente del non 19. Potrà farsi un cumulo di benefici. Però si può comprare dei romanzi, e invece in questo caso assolutamente sì, o anche delle riviste di gossip, per quanto sembra di capire. Mettere il codice fiscale come nei farmaci, si ha già un'indicazione o no? No, però qua io ritengo che dovrà essere fatto per poter essere ricondotto la persona fisica o giuridica che ha acquistato. Ecco, parliamo, ho detto persona fisica e persona giuridica, questo è l'aspetto secondo me più interessante, perché stiamo parlando di famiglie, ma con la legge consentirà anche alle persone giuridiche, quindi anche, in realtà anche delle società, anche delle fondazioni, anche delle associazioni potranno acquistare i libri, lo vedremo nel regolamento, ma per come è scritta pare proprio che ci sarà anche questa possibilità. Allora, riepilogando, quindi ancora non è entrata in vigore, non entra in vigore il 1 gennaio, ma bisogna aspettare la pubblicazione, i 60 giorni e l'emanazione del regolamento. Quindi ascoltate il cacciatore di libri, vi faremo sapere quando potete iniziare a comprare i libri. L'ultima esclusione che volevo ricordare, libri cartacei, libri esattamente fisici. Infatti ci stavo arrivando, appunto, perché purtroppo questa detrazione non vale per gli ebook. Gli ebook, lo sappiamo, costano in proporzione meno rispetto al libro cartaceo, hanno per gli editori una tassazione più alta, cioè quella al 22 non al 4%, insomma questa è tutta una questione complicata nella quale adesso non mi addentro, e quindi vale solo per i libri cartacei, sia usati sia nuovi. L'importante è che ci sia il codice ISBN. Ancora non è valido, quando sarà valido naturalmente ve lo comunicheremo, e sostanzialmente funzionerà in modo simile, almeno così supponiamo, come si fa con l'acquisto dei farmaci. Grazie ad Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore per grazie averci a aiutato a districare questa materia complicata. Poi se ci sono domande degli ascoltatori naturalmente le giro a te, perché io non saprei rispondere dal punto di vista fiscale. Le aspetto. Stiamo per scoprire che cosa ci riserverà domani il domenicale del Sole 24 Ore, l'inserto culturale. Domani ultima puntata dell'anno del 2013. Armando Massarenti, che cosa ci proponete come ultimo numero dell'anno? È una riflessione di Sergio Luzzatto, lo storico illustre collaboratore della Domenica, che ci parla di qualcosa che in realtà verrà festeggiato e ricordato nel 2014, nell'anno che verrà. Quindi festeggiamo prima, insomma, festeggiamo un anniversario. Festeggiamo prima, ma perché vogliamo che tutto l'anno poi sia all'insegna di questa opera di cui ci parla Sergio Luzzatto, che cos'è? Niente di meno che Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Che veniva pubblicato per la prima volta proprio 250 anni fa. Ah, ecco. Quindi insomma un anniversario tondo tondo. Ecco, ma è un anniversario particolarmente importante a mio parere. Uno, perché ci si dimentica troppo spesso che siamo tutti figli, dovremmo perlomeno esserlo, soprattutto dal punto di vista dei valori dell'illuminismo di cui Cesare Beccaria, insieme a coloro che, come ci mostra molto bene Luzzatto, hanno pensato e anche in parte scritto insieme a lui quest'opera, cioè i due fratelli Verri, Alessandro e Pietro Verri. Tra l'altro quest'anno c'era un altro anniversario carino, che era quello di Pietro Verri, che proprio 250 anni fa scriveva per il primo abbozzo di quella lettera sulla felicità. Ecco, la felicità c'entra molto in realtà, perché alleviare le pene del mondo è una degli scopi di questa opera, che ha fatto poi il giro di tutto è un'opera fondamentale, è un'opera fondamentale, ma soprattutto tra l'altro, esatto, che creò anche qualche problema tra i tre amici, perché Beccaria divenne subito famoso in tutto il mondo, mentre invece i Verri non ebbero quella notorietà tra i filosofi. E però in che modo verrà festeggiato appunto questo anniversario? Ma intanto appunto perché la questione dei diritti fondamentali deve essere sempre al centro della nostra attenzione. Sapere culturalmente da dove arriva questa idea è importantissimo, sapere che il nostro sistema, basti pensare al sistema carcerario, purtroppo è di strettissima attualità. Infatti, così peraltro si conclude il bel affresco che ci fa Luzzatto, e perché Dei delitti e delle pene poi insomma ha una cultura di tipo giuridico che è stata rivoluzionaria, ma che in fondo non è ancora ben capita oggi. Ecco, molto spesso ci sono contraddizioni. In pratica qual era il concetto fondamentale? Era l'idea di desacralizzare il diritto penale, distinguendo poi una volta per tutte il delitto dal peccato, il danno dalla colpa, la pena dall'espiazione. Ecco, concetti assolutamente fondamentali che però dovremmo separare anche meglio. La religiosità da quello che è invece il danno che viene fatto alla comunità dal punto di vista laico, insomma dello Stato. Esatto, qui è molto interessante la sottolineatura che fa Luzzatto del fatto che Dei delitti e delle pene fa parte di quella filosofia di tipo utilitaristico che poi avrà un grande successo soprattutto nei paesi anglofoni, ma che nasce in Italia. Cioè, noi spesso ci dimentichiamo che un bel pezzo della modernità che poi nel mondo si è sviluppata è un da made noi in un Italy. Po' meno, è assolutamente un made in Italy. Armando, per questo 2014, insomma, che è alle porte, oltre a sperare in un anno pieno di libri, insomma, per il domenicale, per i tuoi lettori, che augurio fai? Ma intanto di seguirci in queste nostre iniziative, intanto tantissimi auguri a tutti, perché sia un anno non solo felice, come ci avrebbero detto i nostri amici illuministi, quindi poniamo al centro la felicità, ma una felicità piena di ricca di contenuti, ricca anche, se vogliamo, di uno sguardo sul mondo. Noi come Domenicale cosa faremo quest'anno? Cioè, è stato il trentennale del Domenicale. Stiamo preparando, e sarà pronto in poco tempo, un sito che presenterà la cultura italiana nel mondo, cioè quindi sarà un sito in inglese, ma che servirà anche a noi italiani per esercitarci. Per promuovere il nostro Made in Italy, la nostra cultura, che non siamo solo insomma moda e design, ma siamo anche cultura e tante altre cose. Siamo soprattutto cultura, forse senza la cultura anche moda e design sarebbero meno importanti e meno appetibili nel mondo. Grazie Armando Massarenti, responsabile del Domenicale, il supplemento culturale del Sole 24 Ore, domani in edicola. E prima di chiudere, una segnalazione per gli appuntamenti culturali. Fino al 6 gennaio a Sestrier, quindi siamo sulle montagne del Piemonte, c'è Casa Italia, una serie di eventi gratuiti fra musica, letteratura, storia ed enogastronomia. Per quanto riguarda i libri, ci saranno scrittori come Giuseppe Culicchia, che parlerà del libro E così vorresti fare lo scrittore, un ritratto divertente del mondo dell'editoria. Tutte le informazioni su questi eventi su salonelibro.it. Anche per oggi e per quest'anno, per questo 2013, con il Cacciatore di Libri è tutto. Grazie in regia a Roberto Scaltritti e a Fabio Cantadori. Come sempre da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti per questo e per il prossimo anno.